Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ben ritrovati a Cuore e Denari in questa nuova calda giornata di giugno. Oggi forse però una rinfrescata qui a Milano, il tempo ce la regala, Nicoletta. Tu sei contenta o no? Io non tanto, perché poi peggiora un po' la situazione, arriva questa cappa di umidità che ci soffoca. Guarda, vabbè, sai che io adoro il caldo e sono malata. Adesso ti coccolo io, guarda, magari dalla nostra ospite che ci ha già portato il suo cuore ti facciamo coccolare. Sì, lo volete vedere questo? Sì, guardate su Facebook oggi. Guardate che bello. E adesso vi raccontiamo anche che cos'è questo cuore così protettivo che ci è stato regalato questa mattina. In ogni caso l'estate è sempre più vicina, il caldo si fa sentire. Oggi nella seconda parte del nostro programma parleremo di condizionatori, forse l'avete già acceso, ma in ogni caso siete a posto con la manutenzione. Di solito quando lo accendi si rompe, no? Esatto, e a quindi me è insomma, capitato così. Allora io non ho ancora provato perché non amandolo, cioè devono esserci proprio 250 gradi in casa per farlo accendere a me. Comunque, con questo caldo, oltre a pensare ad accendere il condizionatore, molti pensano già naturalmente alle prossime vacanze, sono sempre più vicine. C'è chi le sogna, chi le organizza, chi le ha già organizzate, spesso utilizzando il canale online sempre più diffuso e gettonato. E noi tra pochissimo, nella nostra rassegna stampa di denari, parleremo di questo, perché quasi l'80% degli italiani sceglie di prenotare online l'albergo o tutta l'organizzazione appunto delle proprie vacanze, e quasi la metà crede che sui siti di comparazione si trovino le offerte più convenienti. Deborah, a proposito di numeri, io chiedo ai nostri amici di dare un voto alle loro gambe o quelle della moglie, del partner, del collega di lavoro, e poi chiamateci come sempre a vostra disposizione il nostro numero verde 800 24 0024, un numero che rinfresca. Come avrete capito, oggi per la parte di cuore parliamo di gambe. Nel corso dell'anno non le abbiamo mai trascurate, figuriamoci se lo facciamo ora nel momento più caldo dell'anno. In questi giorni è facile tornare a casa con le gambe gonfie, pesanti, si ha un po' l'impressione di avere le scarpe strette, si avverte una sensazione di pesantezza, a volte accompagnata da una tensione leggermente dolorosa oppure da un leggero ma fastidioso prurito. Se notate vene più o meno in rilievo, capillari nuovi sulle caviglie o ancora sandali che lasciano il segno, chiamateci. Oggi consigli per regalare benessere, tono e anche bellezza alle nostre gambe. Dai! Prima di tutto però un appuntamento con i denari. Allora, intanto la borsa oggi positiva dappertutto, anche se con prestazioni molto differenti. La miglior piazza è Parigi, più 0,8, Francoforte più 0,4, Londra più 0,25, Milano più 0,29%. Una giornata molto ricca di appuntamenti, soprattutto guarderemo ancora una volta agli Stati Uniti e Washington, riunione del Federal Open Market Committee, il braccio operativo della Banca Centrale Americana, che stasera annuncia la seconda stretta sui tassi di interesse nel 2017. Chissà quanti prossimi ne annuncerà Janet Yellen, ci attesa soprattutto per la sua conferenza stampa. A Milano i migliori titoli Exor Holding di casa Fiat più 2,30%, Yux Net-a-Porter più 1,89%, Campari più 1,64% e il Banco BPM più 1,51%, dopo che ha ceduto un portafoglio di crediti in sofferenza per quasi 700 milioni di euro. Il primo approfondimento di oggi. Allora, come dicevamo in apertura, il caldo di questi giorni ci fa pensare sempre di più alle vacanze. Troppo presto, forse, per iniziare a fare il conto alla rovescia. Beh, mica tanto, c'è qualcuno che già con le prenotazioni si è portato avanti. Avantissimo. Da un sacco di mesi per ovviamente risparmiare e pagare molto meno. Non è troppo presto per organizzarle. Anzi, soprattutto se non si vuole fare della propria vacanza un salasso di denari e si cerca l'offerta più conveniente. Sappiamo che per molti ormai i siti di comparazione e ricerca online sono il canale più gettonato per chi organizza un viaggio o un soggiorno, e proprio su questa abitudine si concentra una ricerca che è stata realizzata dall'Unione Nazionale Consumatori con la collaborazione di IHG Rewards Club, il programma fedeltà di Intercontinental Hotels Group. Questa ricerca si intitola proprio Vacanze Online, come risparmiare. È una sorta di indagine che è stata condotta su base volontaria da parte degli utenti, non solo della associazione dei consumatori ma anche del popolo web, organizzata ovviamente dall'Unione Nazionale Consumatori. E allora noi questa mattina siamo con il presidente, l'avvocato Massimiliano Dona, che ringraziamo. Ben ritrovato. Eccoci, buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno avvocato. Allora, il metodo di questa ricerca e poi quali sono stati i dati più interessanti che sono emersi? Ci dà qualche cifra che descrive le abitudini dei nostri concittadini che ormai hanno la testa su luglio e agosto pronti a partire? E lo dimostra anche il grande successo che ha avuto questa nostra ricerca, oltre 800 risposte che ci hanno confermato che il consumatore, quando indossa i panni del turista, diventa sempre più consapevole. Online, ormai lo sappiamo tutti, si può allestire una vacanza risparmiando, ma quello che ci interessava era capire quale canale si sceglie online, perché molteplici sono le possibilità. Negli anni scorsi hanno avuto un grandissimo successo quelle piattaforme, i cosiddetti aggregatori, comparatori di prezzo, cioè quei siti dove trovavamo raccolte molte offerte così da consentirci una facile valutazione di quella per noi più conveniente. Ma perché dico che ci sembra veder crescere una nuova consapevolezza? Perché dopo il grande successo di queste piattaforme i consumatori italiani stanno riscoprendo anche la prenotazione sempre online, ma sul sito della struttura per loro desiderata. In qualche modo si possono ottenere dei vantaggi, da quello che risulta dalla nostra indagine si riesce in qualche caso anche a spuntare offerte più convenienti, ad esempio stabilendo un rapporto, diciamo così, personale con l'albergatore e usufruendo, non so, magari di qualche benefit, quale può essere ad esempio il trasporto dall'aeroporto alla struttura alberghiera. Quindi sempre più furbi gli italiani, prima vanno sul comparatore, cercano le offerte più convenienti, poi vanno dritto al, come dire, all'albergatore, cercano al soggetto, di ammagliarlo. Esatto, alla struttura direttamente. Esatto, la struttura che li ospiterà. Sono più smaliziati, hanno capito che internet offre molte opportunità, quindi non manca chi fa il cosiddetto infocommerce, cioè viaggia sulle piattaforme per documentarsi, ma poi almeno la metà di chi compra una vacanza online lo fa sul sito dell'albergo, mentre un'altra metà resta affezionata ai comparatori, dei quali, e questo infatti ci ha colpito, in molti si interrogano sull'affidabilità. Certo. Lo ha detto anche la Commissione europea nei mesi scorsi, ne abbiamo parlato anche insieme, di un comparatore pochi sanno come funziona realmente, quindi se le varie strutture pagano magari per essere visualizzate ai primi posti, e questa diffidenza che io giudico sana, perché non è una critica assoluta, un rifiuto degli aggregatori, ma è un farsi delle domande che il consumatore turista ci dimostra, con la quale il consumatore turista ci dimostra una maturità crescente della quale non possiamo che essere lieti. A quali aspetti fare attenzione però se si prenota online, avvocato Dona, anche se abbiamo visto che la popolazione dei futuri turisti cresce, almeno riferendoci a quelli appunto che utilizzano i servizi su web, ma ancora qualche informazione scappa, certo, alle persone che cercano questa modalità di prenotare la propria vacanza, come per esempio il fatto che se si vuole poi cancellare la prenotazione non tutti sanno che quello è un onere che compare misteriosamente ad un certo punto della prenotazione e non è chiara dall'inizio. Comprare online non è facile, io continuo a dirlo, che è bene essere abbastanza esperti, anche perché ormai tutti noi usiamo per andare su internet device sempre più piccoli, insomma dallo schermo di un cellulare, di uno smartphone o anche del tablet, non è sempre facile avere una chiara idea di quello che si trova sul sito. Quindi un primo consiglio pratico è quello, avendo il tempo, di navigare da un computer fisso, si ha più calma, più tempo anche per vedere meglio le scritte in piccolo che online non mancano mai. Il rischio principale, anche qui c'è stata una denuncia della Commissione europea proprio recentemente, è quello che di schermata in schermata vada ad aumentare il prezzo, quindi il prezzo iniziale sia un po' uno specchietto per le allodole, ma poi ad esempio scegliendo un determinato periodo, metodo di pagamento, questo prezzo, esatto, o un determinato periodo, certamente questo prezzo vada a lievitare. Il consiglio più importante però online, proprio per evitare che tutto sparisca con diciamo così, con l'evanescenza tipica del web, è di stampare le schermate che raccontano l'offerta e i servizi di cui andremo ad usufruire, perché quelli vincolano l'operatore e quindi saranno un po' il metro per valutare la nostra soddisfazione qualora sul posto non ci sia poi fornito tutto quello che era incluso nell'offerta. Avvocato Dona, grazie per essere stato con noi, ci risentiremo magari a fine estate nel caso in cui gli italiani in tanti abbiano scelto di fare le loro vacanze online, magari ci faremo raccontare se sono stati protagonisti di disavventura o meno, ovviamente. ovviamente ci auguriamo di no, speriamo che invece questo sia uno strumento proprio destinato alla crescita della consapevolezza dei consumatori, per cui grazie molte ancora e buona giornata. Grazie a voi e per chi le sta facendo buone vacanze. Esatto, è entrato, sì, c'è gente che parte e devo dire che effettivamente giugno è un mese meraviglioso a poterle fare, insomma, Nicoletta, magari ci alterniamo l'anno prossimo, per i nostri compleanni ci regaliamo delle vacanze alternate. Intanto salutiamo Stefano, cosa lo scrive, che già, scrive via che WhatsApp, lui in questo momento non è in vacanza, ma sì, lavora e con tutto sto caldo ci scrive, pensate a me che faccio il saldatore, fatemi un saluto rinfrescante. Assolutamente, come si chiama? Stefano, 24, Firenze. Un abbraccio, a tra poco. Cuore e denari. Ma le gambe, a me piacciono di più. Proprio adesso che la stagione... No, io non ho capito, scusate, ma perché noi abbiamo un cuore... qua e voi potete vederlo se ci state seguendo su Facebook, esatto. Diretta Facebook, mi ha già fatto togliere l'acqua. No, il cuore, dicevo l'acqua, qui? Mettila dietro perché sennò un po' rovina l'immagine di questo cuore che va valorizzato in tutta la sua bisogna pienezza. Avere, ecco, cuore, il cuore ha una stretta relazione anche con le nostre gambe, lo scopriremo strada facendo e proprio in questa stagione, quando dobbiamo metterlo un po' in mostra, le gambe sembrano dare il peggio di sé, un po' come i bambini che quando li porti in visita ai parenti fanno mille capricci. Comunque è fisiologico, amiche e anche amici, perché quando la colonnina di mercurio sale, le caviglie appaiono gonfie, le gambe diventano pesanti, avvertiamo un senso di affaticamento, le sentiamo indolenzite, a volte anche un po' dolenti. Poi, se le osserviamo con un po' di attenzione, notiamo vene più o meno evidenti e capillari che amano riunirsi in famigliole, sì, naturalmente vicini, dove? Vicini. Ecco, nei posti in cui non vorremmo vederli, nei posti più visibili. Comunque, nulla di grave, è l'estate, o meglio il caldo, ma cerchiamo di capirci di più e abbiamo il piacere, abbiamo una new entry, Deborah. Molto bene. Abbiamo una new entry che ti piacerà perché arriva... lo so, l'origine già. Brava, l'origine. È tutto un biglietto da visita. Vero? Sì. In linea con noi abbiamo il dottor Gabriele Pagliariccio, medico vascolare presso l'azienda Ospedali Riuniti di Ancona. Buongiorno, eccolo qua. Sì. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Dottor Pagliariccio, allora, le gambe iniziano a farsi sentire mandandoci dei segnali che non sempre proprio sono molto chiari. Allora, ci aiuti a capire intanto se è solo una sensazione o se le nostre gambe, le caviglie, i piedi sono più gonfi. Io, dottor Pagliariccio, uso alla prova l'accetto, quello della scarpa. Cioè, quando la scarpa la slaccio alla sera e mi lascia un leggero segno, dico, eccolo lì. Leggero poi, immagino, non sempre. Ma insomma, i piedi però sono miei. Sono i tuoi, sì, esatto. Ma io non lo so. Però immagino, dottor Pagliariccio, adesso poi darò la parola alla sua amica marchigiana, che ci sia qualcosa di meglio dell'accetto. Cioè, magari voi medici potete suggerirci qualche autotest più efficace. Ma in realtà gli autotest ce ne sono, però io vorrei sottolineare il discorso che facevate voi poco fa. L'autovalutazione è il test più importante. Solo noi conosciamo a fondo noi stessi, le nostre sensazioni, le nostre gambe. Io vorrei che da questa nostra chiacchierata uscisse non tanto che i radioascoltatori non portassero a casa dei mirabolanti interventi o chissà che, ma il fatto che noi dobbiamo prenderci cura delle nostre gambe. Bravo. Non dobbiamo trascurarle. Lei è l'uomo per noi. Puntiamo sulla prevenzione e prendiamoci cura di noi. Assolutamente. Con generosità e gioia. Il messaggio è questo, perché se poi dopo 10-20 anni che trascuriamo le nostre gambe, i segni che adesso diremo, poi ci troviamo in una brutta situazione, ma queste brutte situazioni sono frutto di anni e anni di segni, di sintomi che sono stati da noi sottovalutati per il lavoro, per lo stress, per la famiglia, però poi noi raccogliamo i frutti. Allora è importante capire questi segni che voi dicevate poco fa, che sono molto importanti, ma sono segni anche banali che spesso più che il nostro medico magari di fiducia, le capiamo da soli, perché ritorniamo la sera, abbiamo le scarpe che ci stringono e la mattina non stringevano evidentemente, abbiamo il calzino che fa fatica ad uscire dal piede, oppure semplicemente premiamo sulla pelle e troviamo che il dito lascia il segno, sono tutti segni di un ristagno di liquidi, chiaramente come dicevate voi è la stagione, perché il caldo sappiamo che vasodilata e quindi provoca un ristagno di liquidi. I liquidi dove vanno? Verso il basso con la pressione idrostatica, e quindi il primo segno sono le nostre gambe. Quindi questo è il primo segno, i primi sintomi che dobbiamo andare a vedere e che possiamo fare tranquillamente da soli. Chiaramente poi dobbiamo vedere se a questo gonfiore ci sono associati degli altri piccoli segni, per esempio dei piccoli capillari che voi sottolineavate poco fa, che sono brutti, antipatici, antiestetici, ma poi vedremo hanno poco significato in se stessi. Oppure se ci sono delle vene più importanti, oppure se la pelle ha cominciato nel corso del tempo a prendere un colorito un po' brunastro. Sono tutti piccoli segni che ci fanno dire che c'è qualcosa che non va. E per ultimo, cerchiamo di far mente locale se a questi segni sono associati dei sintomi, per esempio i crampi notturni, per esempio una sensazione di pesantezza costante durante il giorno, una stanchezza delle gambe, un gonfiore che magari non c'è più, non c'è solo la sera, ma comincia a esserci anche la mattina. Questi sono tutti i segni che se li mettiamo insieme ci danno un quadro importante, ma questa è una cosa che possiamo fare noi. Allora prima del medico. Fatelo anche voi, e noi il medico ce l'abbiamo in linea, possiamo parlare con lui all'800 24 00 24, ma il dottor Pagliariccio diceva dobbiamo prenderci cura di noi, e allora noi abbiamo invitato un'amica che ci insegna a prenderci cura di noi. Abbiamo qua in studio Benedetta Spada. Ciao Benedetta. Ben ritrovata. Buongiorno a tutti. Insegnante mindfulness e yoga che ci ha portato questo cuore, poi se lo desidererà ci racconterà la storia. Benedetta, le tue gambe sono perfette, tutto anche merito dello yoga, perché lo yoga è amico delle gambe, dell'equilibrio, dell'armonia e anche della nostra circolazione. Tu tra l'altro hai scritto un libro bellissimo che io voglio suggerire, perché proprio cade a fagiolo di questo periodo, si intitola Yoga in viaggio. E lì scrivi che si possono fare piccoli esercizi durante gli spostamenti per favorire la concentrazione e la riflessione. Io aggiungo anche la circolazione. Benedetta. Esatto, guarda, posso dirti che lo yoga ha salvato le mie gambe, nel senso che io ero una ragazzina con tutti i disturbi che tu e il medico avete elencato, li avevo tutti io, mangiavo anche molto salato e molto dolce, poi la mia alimentazione è cambiata, ma la pratica yoga, e parliamo di yogasana, quindi le posture, gli esercizi, hanno realmente cambiato le mie gambe, completamente trasformate, e oggi a volte durante la stagione molto calda posso soffrire di piccoli sintomi di questo genere, ma gli esercizi che faccio sia la mattina che la sera subito cambiano la mia microcircolazione. Interessante, dottor Pagliariccio. Benedetta ha detto gli esercizi che faccio sia al mattino che la sera. Vero, ti ha colpito anche te, perché solitamente noi quando ci occupiamo delle nostre gambe la sera, perché è il momento più critico, insomma entrare a casa e lanciare le scarpe è una vera goduria, anche magari se sotto sotto magari al riparo da sguardi indiscreti c'è qualcuno che le scarpe se le sfila anche per trovare sollievo sotto la scrivania in ufficio, io l'ho visto, perché alla sera sono un po' in crisi. Ma Benedetta Spada dice iniziamo a lavorare, a prepararle ad affrontare la giornata sin dal mattino. E vi dico di più, perché Benedetta adesso è avvolta da uno bellissimo scialle violetto, però sotto ha la sua tutina con colori caraibici che riprendono un po' quelli del cuore che abbiamo qua in studio, e ci farà delle asana per proprio dedicate alle nostre gambe. Quindi voi un po' ce le descriverà, ma anche mentre noi raccontiamo col dottor Pagliariccio che cosa fare, voi potete assolutamente vederla. Adesso andiamo invece a sentire il nostro. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Q cuore e denari. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Allora, l'estate a volte lascia il segno. Se voi ci state vedendo, vi accorgerete. Sembra che il circolo. C'è una sorta di gineceo. Mi dispiace. Circolo del cucito, chiamiamolo così. Per il dottor Gabriele Pagliariccio, che è il nostro vuole ospite. Vuole ricamare anche lui. È un medico vascolare presso l'azienda Ospedali Riuniti di Ancona, che è solo in linea con noi, ma pronto per raccontarci e darci suggerimenti per il benessere delle nostre gambe, perché è entrata anche una collega. Insomma, le gambe per le donne sono un po' il tallone d'Achille, dottor Pagliariccio. È vero, ma è vero perché è, come dire, una cosa statistica. Quello che sappiamo è che le donne soffrono, se parliamo di insufficienza venosa, il 75% delle persone che soffrono di questo problema sono donne. E quindi è, come dire, un qualcosa che ci portiamo nella genetica, oltre al discorso dell'ereditarietà, delle scarse seguito delle norme igienico-comportamentali banali che abbiamo tutti i giorni, perché spesso le donne fanno delle attività che le tengono ferme, parliamo delle casalinghe, parliamo che le tengono ferme in piedi e vicino alle fonti di calore, pensiamo alle casalinghe, pensiamo alle parrucchiere, pensiamo a tutte occupazioni che le tengono in una posizione che purtroppo per forza di cose porta all'insorgere di questi sintomi e a farli peggiorare, sintomi che magari c'erano già più nascosti. Allora, osservate le vostre gambe, chiamate, raccontateci se avete dei dubbi, fateli, troverete una risposta. Gonfiore, prurito, io aggiungerei il formicolio, ma su cui faremo una parentesina, ma anche senso di pesantezza, presenza di capillari e vene varicose. Sono tanti sintomi, il dottor Pagliariccio ce li ha descritti, per fortuna non sono sempre tutti presenti contemporaneamente, alcuni sono più importanti dal punto di vista clinico di altri. Allora, dottor Pagliariccio, le do a disposizione tre colori, verde, arancione e rosso, e vorrei che lei abbinasse il colore adatto ad ogni sintomo in modo da farci capire subito se il disturbo che avvertiamo richiede solo qualche piccola attenzione, e qui entra anche naturalmente in scena Benedetta Spada, suggerendoci degli esercizi da fare al mattino e degli esercizi da fare anche la sera, quindi non solo la sera, e invece se è un disturbo, un sintomo che richiede un approfondimento clinico o perché potrebbe essere un campanello d'allarme. È pronto, dottor Pagliariccio? Sì, prontissimo. Allora, partiamo col senso di pesantezza alle gambe unito al formicolio. Verde, arancio, rosso? Verde. Verde. Intanto, Benedetta, tu memorizza, perché poi tu lavorerai sugli esercizi. Gonfiore alle gambe, specie alla fine di una giornata in cui siamo stati in piedi a lungo, tante ore sedute o alla guida, come ci stanno raccontando tanti ascoltatori. Verde. Prurito o dolore, un po' crampiforme, simile ai crampi, soprattutto di notte. Qui cambiamo colore, direi arancione. I capillari, la presenza di capillari, quando soprattutto si estendono e cambiano anche un po' colore, si localizzano all'interno delle caviglie, all'interno o all'esterno delle caviglie, o sopra il ginocchio, nella parte interna della coscia. Che colore diamo ai capillari che diventano un po' di tutti i colori, dal rosso al violetto? Direi arancione, anche qui. Vene varicose. Prima di chiederle il dolore, le chiederei, dottor Pagliariccio, di aiutarci a dare una definizione, perché noi chiamiamo vene varicose magari, no, tutto quello che, vero Deborah, ci sembra che abbia un movimento tortuoso nelle nostre, sui nostri, certo, polpacci, e sia più o meno in rilievo. Sì. Allora, prima diamo il colore. Sì. Rosso. Rosso. E poi entriamo nel quid. Diciamo che non tutte sono vene varicose. Possiamo dividerle in tre categorie, se mi si permette il termine. Allora, il primo sono i capillari, quelli che descrivevate prima con tanta dovizia di particolari, che sono le telangiectasie in termine medico, che sono dei vasi piccoli, piccoli, piccoli, di colore blu o rosso. Possono arrivare al massimo un millimetro e mezzo, che di solito non danno neanche nessun fastidio, ma sono esteticamente molte volte brutti e sgradevoli. Da questi passiamo alle vene reticolari, che sono vene un pochino più grandi, fino ai 3-4 millimetri, ma che non escono dalla superficie della pelle, quindi sì, non sono rilevate. Okay. E che alcune volte nella stagione estiva possono essere anche fastidiose, dolenti, e dolenti e noiose. Il terzo grado, se lo vogliamo chiamare così, sono le varici. Le varici sono, sono delle vene più grandi delle vene reticolari, quindi superiori ai 4-5 mm, sono tortuose, sporgono spesso decisamente dalla superficie cutanea, cioè dalla pelle, sono in rilievo, si vedono, e queste invece gli abbiamo dato il colore rosso proprio perché possono essere fonti di problemi, di complicazioni, anche qualche volta anche significative e importanti. Quindi vediamo che sono tre manifestazioni della stessa malattia, che è l'insufficienza venosa. Ecco. Tutto chiaro, ma Benedetta, a te il compito di suggerirci degli esercizi. Possiamo farli anche, come tu insegni nel tuo ultimo libro, Yoga in viaggio, anche da seduti durante uno spostamento, quindi potenzialmente anche alla scrivania. Su Aldi, per altri esercizi bisogna impegnarci un pochino di più. Ma intanto io inizialmente inizierei proprio al primo risveglio, cioè quando noi ci svegliamo, ancora prima di alzarci dal letto, dovremmo fare degli esercizi. Quindi magari riattivare la circolazione muovendo le caviglie, muovendo le gambe a scatti, piegando le gambe verso di noi, poi estendendole, prima ancora di sollevarci, poi portarci seduti e ancora prima di portarci in piedi, massaggiare dalla caviglia verso il cuore le nostre gambe 2-3 volte per lato, metterci in piedi e iniziare magari a camminare a piedi scalzi, sentendo come una sorta di automassaggio il piede che tocca terra, no? Dalla punta al tallone, dal tallone alla punta. Questo secondo me è il primo esercizio fondamentale. Perché il piede è una pompa straordinaria. Sì, esatto. È vero? Esatto. Questo è un messaggio che mi aveva raccontato, dato al Benedetta, perché proprio nel momento in cui camminiamo e come camminiamo anche in qualche modo influenzerà come poi noi sentiremo le nostre gambe la sera. Quindi iniziare così la giornata è importante. Poi, se abbiamo tempo, se è possibile, prima di andare in ufficio o al lavoro o di accompagnare i bambini a scuola, prenderci quei 10-15 minuti per fare degli esercizi un pochino più impegnativi, quindi magari in piedi sollevare una gamba per volta e alternare, portare la gamba, poi magari lo farò vedere, piegata verso il gomito del braccio opposto. A scatti, ma più lo facciamo rapidamente e più riattiviamo la circolazione. Tra l'altro, se facciamo questi esercizi a stomaco vuoto è meglio, perché il corpo risponde più velocemente, il nostro metabolismo anche. Dopodiché sappiamo che teoricamente, non so, magari il dottore mi correggerà, però io teoricamente dico sempre: non restate in una postura fissa a lungo con le gambe incrociate, perché in qualche modo bloccate la circolazione. E c'è invece un esercizio dinamico che permette anche in questo caso di riattivare il movimento della parte inferiore del nostro corpo, che ci porta appunto a incrociare le gambe dinamicamente da in piedi, come facciamo quando siamo seduti, ma in realtà non teniamo le gambe incrociate. Esercizi, io direi, un pochino più invece importanti per chi ha problemi un pochino più importanti, sono tutte le posture con le gambe rivolte verso l'alto. Ecco, quello che ci viene naturale fare quando torniamo, vero? Sì, poi l'indicazione principe, no, che viene data, quella prima cosa da fare è sollevare verso l'alto, sì, la gamba. Tutte le posture che possono essere più o meno semplici, io direi la più semplice, quella che credo che facciamo un po' tutti in questi casi di auto di emergenza, è proprio quella di appoggiarci con le gambe al muro e spingere il sacro verso il muro e stendere proprio le gambe verso l'alto al muro e restare lì qualche minuto. Io chiamo le gambe a squadra. Questa postura può anche essere un po' più intensa, un po' più attiva, quindi lavorare anche a livello muscolare, se noi con una corda o con le dita delle mani andiamo ad afferrare i piedi mantenendo questa estensione delle gambe. La postura yoga per eccellenza dedicata a questo è la candela. Ma qui già andiamo poi a delle piccole controindicazioni, nel senso che dobbiamo sempre stare attenti, e allora magari non tutti la possono vivere, non tutti possono accedervi. E poi sicuramente concederci sempre anche una pratica un po' più dinamica. Lo yoga sapete che si divide tra una parte un pochino più di mantenimento nella postura, una parte un pochino più riattivante. Quindi per esempio il classico saluto al sole, mm-hmm, o saluto alla luna, dipende da che fascia oraria noi attiviamo il nostro esercizio, la nostra sequenza, è molto utile perché va a lavorare appunto sul nostro metabolismo, sulla microcircolazione, e soprattutto ci sono degli esercizi che noi non consideriamo affatto, che non lavorano direttamente sulle nostre gambe ma lavorano sul nostro cuore, che sono degli esercizi che possiamo fare con le mani, no? Quindi possiamo stendere le nostre braccia lateralmente o davanti, come preferiamo, e stringere le mani in pugno ma molto strette, poi stenderle il più possibile. Questo movimento, in qualche modo, se lo sentite anche, è come se pompasse sangue, non so come dire, va a riattivare la circolazione. Questo movimento fatto durante il giorno qualche volta, ma io sono anche per i micro esercizi sotto il tavolo. Brava! Cioè, se noi stiamo 6 ore, 8 ore sedute, come facciamo? Allora, portiamo consapevolezza al nostro respiro, innanzitutto non solo nella parte alta del corpo, ma anche dalla vita in giù. Poi attiviamo le dita dei piedi, ogni tanto magari togliamoci le scarpe, allarghiamo le dita dei nostri piedi, stiriamole il più possibile, incontriamo un po' con la muscolatura, cioè come se, come dire, volessimo contenere il corpo e poi lasciarlo andare, no? Questi micro movimenti sono importanti, ci portano a prendere coscienza di quella parte che spesso, soprattutto noi donne, dimentichiamo sotto i tacchi. Sono movimenti alla cuore denari, costano poco, rendono tanto. Dottor Pagliariccio, insomma, abbiamo fatto una sorta di lezione di yoga in diretta, le è piaciuta? Sottoscrivo tutto quello che ha detto la nostra benedetta spada. Adesso se la ruba e se la porta ad Ancona. Io sono un fautore di questa cosa, io ritengo che quando ci troviamo di fronte, viene magari a visitarci, a trovarci una persona con le varici, con le ulcere, sia una sconfitta, sia la nostra sconfitta. Perché? Perché se tutte queste norme, questi esercizi, queste cose che ci ha detto la nostra benedetta spada fossero più diffuse, probabilmente non si arriverebbe a tante situazioni gravi e serie. Lavorassimo di più su questo versante. Ecco, io propongo benedetta spada in volo, perché dottor Pagliariccio vorrei, dato che siamo vicini alle vacanze, molti prenderanno l'aereo magari per destinazioni lontane, ore e ore in aereo, attenzione alle gambe, quindi istruzioni dottor Pagliariccio, che cosa bisogna fare quando si sta tante ore in un viaggio aereo, quale attenzione e precauzioni è bene adottare? Tutti i viaggi, non solo quelli aerei noi li prendiamo sempre come paradigma perché spesse volte sono lunghi, ma anche il viaggio in treno, anche il viaggio in macchina, sono situazioni un pochino più a rischio. Perché? Perché noi sappiamo che il sangue venoso di cui stiamo parlando viene riportato al cuore tramite le valvole da cui siamo forniti nelle nostre vene, tramite un gradiente pressorio che, diciamo così, richiama il sangue verso il cuore, ma soprattutto dalla pompa muscolare, quella che accennava prima benedetta spada, che non è solo nel piede, è anche, quindi la pompa plantare, ma è anche nel polpaccio, è nella passe posteriore del ginocchio, è nella coscia. E questa pompa, evidentemente, quando noi viaggiamo lungo, è ferma, è immobile, così come quando stiamo tante ore magari fermi seduti per lavorare. Allora, in questo caso, noi dobbiamo fare in modo di interrompere questo circolo vizioso. Per cui dobbiamo interrompere la stasi, dobbiamo muoverci, dobbiamo, se possibile, fare dei piccoli passi, magari 30 secondi ogni 10 minuti, fare delle flesso estensioni del piede o sollevarci sulla punta e sui talloni semplicemente da seduti, però dobbiamo interrompere la stasi. Quindi è molto importante, se siamo in treno, per esempio, camminare lungo il corridoio. Questo è facile. Ecco, in macchina, per esempio, interrompere il viaggio, magari per una piccola pausa, camminare una decina di minuti nell'autogrill, per esempio, oppure, se possibile, tenere le gambe in alto, se siamo nel sedile posteriore, sollevare le gambe. In aereo è quello che è possibile fare, innanzitutto, per esempio, scegliere un abbigliamento confortevole, non vestiti troppo stretti, trovare il modo di cercare di muoversi, quindi scarpe calze comode, elastiche le indossiamo in aereo, dottor Pagliariccio, o no? Direi di sì. Ecco, io volevo arrivare a quel punto. Direi di sì. Come si scelgono, a chi le raccomandiamo, in generale a tutte le persone che avvertono anche questi sintomi molto sfumati di cui abbiamo parlato, o a un profilo di donne, di uomo in particolare? Ma guardi, le calze elastiche sono il presidio terapeutico numero uno. Quindi, perché oltre a tutte queste norme igienico-comportamentali che dicevamo adesso, quindi evitare la stasi, l'attività motoria, una cosa di cui ne abbiamo parlato, combattere il sovrappeso, quindi ci sono tutta una serie di norme, la contenzione elastica è la cosa più importante. Allora, quanto incide, dottor Pagliariccio, perché prima di riprendere la linea una collega ci ha raggiunto e così sono partiti dei consigli alimentari per ridurre il gonfiore alle caviglie e il senso di pesantezza alle gambe. La nostra dieta quanto può influire sull'esordio di questi sintomi e sul peggiorare magari una condizione già un po' a rischio? Diciamo un pochino la nostra dieta, diciamo che la cosa più importante, la dicevo poc'anzi, è il sovrappeso, più che la dieta, perché combattere il sovrappeso è una cosa fondamentale. Molte persone risolvono un problema degli edemi alle gambe, disturbi alle gambe, controllando il peso, rientrando nei limiti di un peso accettabile. Quindi questa è la prima cosa. In realtà diete particolari non ce ne sono, si consiglia una dieta di fibre perché per esempio la stipsi, quindi la stitichezza, può provocare un aumento del torchio addominale a lungo andare, quindi aumentare il peso verso il basso della colonna idrostatica. Però ecco, non ci sono diete che aiutano, ci sono una serie di principi naturali che ci possono aiutare, una serie di cibi e di alimenti tipo ad esempio i frutti rossi, mirtilli, mirtillo, eccetera eccetera, che aiutano, combattono la stasi. Perché questo sì, proteggono anche le pareti venose, è corretto? Assolutamente, aumentano il tono venoso, proteggono le pareti venose e quindi migliorano quei sensazioni di fastidio e di pesantezza che noi abbiamo. Io leggo una domanda che è arrivata da Facebook, intanto voi guardate Benedetta perché qualche esercizio lo farà, ma per chi non può seguirci in diretta Facebook vi anticipo che Benedetta Spada farà dei video proprio tutti dedicati alla salute delle gambe e quindi potete assolutamente guardarle. Vedo che Carmelo si è subito attivato per gli esercizi, vedi Carmelo, hai già conquistato anche sì, Carmelo. Credo che questa sia una posizione. Allora, dottor Pagliariccio, per la telecamera, questa sì, è per lei. Ho il colore rossissimo. Safenectomia sinistra nel 93. Oggi la dovrei fare anche alla gamba destra, ma ci chiede è ancora di moda. Ci sono alternative. Porto le calze 120 denari. Allora, ecco, mi piace la domanda. Ma è ancora di moda? Allora, diciamo che è ancora di moda, ma non è il top. Non è la moda preferita. Diciamo che lo stripping, che sappiamo cos'è, è una procedura nel quale la vena safena viene rimossa, viene completamente tolta, è uno stripping, quindi viene strippata via, tolta via, adesso è stata in molti casi sostituita da tecniche obliterative, quindi non più la vena che viene tolta, ma viene obliterata, viene chiusa. Con che cosa? Con il laser o con la radiofrequenza, che non sono altro che dei sistemi attraverso i quali la vena viene sclerotizzata, viene chiusa, e quindi rimane in sede, non viene tolta, ma di fatto non c'è più, non funziona più, non fa più danni. Quindi ci sono queste tecniche. Chiaramente non tutte le tecniche sono applicabili a tutte le varici, a tutte le persone, quindi va contestualizzata a seconda di quanto è grande la safena, di dove sono le collaterali, di dove sono le varici, di com'è la persona. Insomma, ci sono tutta una serie di criteri che vanno visti di persona in persona, di volta in volta, ecco. Dottor Pagliariccio, intanto che lei ci rispondeva alla richiesta del nostro ascoltatore, Benedetta è qui nel nostro studio che sta eseguendo degli esercizi, sono per aiutare i nostri ascoltatori a così dare anche una forma alle sue parole, perché non è sempre facile spiegare, Benedetta lo fa bene, gli esercizi senza poterli visualizzare. Allora Cuore Denari ha pensato di aggiungere anche questa sorta di servizio. Vi anticipo che oltre ai video di Benedetta Spada potrete trovare i consigli che arrivano, dei rimedi naturali del dottor Paolo Vintani, che ha scelto per noi dei rimedi in base a ogni sintomo di cui abbiamo parlato oggi, di cui abbiamo trattato insieme al dottor Pagliariccio. Dottor Pagliariccio, intanto adesso blocco Benedetta perché così può salutare i nostri ascoltatori. Esatto. Se tutti seguissero le indicazioni e sicuramente la ginnastica, ma anche le asana e i movimenti così che svolgono un'azione preventiva molto utile, dottor Pagliariccio, lei potrebbe lavorare anche meno? Assolutamente, ne sarei ben contento. Vero? Quindi noi, vede, lavoriamo anche per lei e lavoriamo anche per i nostri ascoltatori. Soprattutto. tutto. E intanto, dottor Pagliariccio, a questo punto, prima di passare la parola a Deborah, prima per i mercati e poi per i condizionatori che ci faranno restare al fresco, posso chiudere questa puntata raccomandandomi in gamba, dottor Pagliariccio, mi raccomando, perché i chirurghi stanno spesso in piedi. So che usano le calze elastiche anche per tutte le ore in sala operatoria. Siete ben informate. Vede, sappiamo tutto, più di tutto. Ormai. Sì. Grazie, dottor Pagliariccio. Grazie a Benedetta Spada. Grazie a voi, grazie al dottore. Intanto che parleremo di... Deborah parlerà di condizionamento, andrà a registrare, a fare dei brevi filmati sulle posizioni, sugli esercizi che ci consiglia. Grazie per essere stato con noi. Ma e grazie stavo di cuore. Pensando, quando mai potrò portare degli ospiti che possano fare dei lavori adeguati a quelli che fa Benedetta, tutti i tuoi esercizi per la postura? Tu li fai anche, Nicoletta, con l'altra nostra esperta di schiena e postura, che adesso mi sfugge. Laura Bertelet. Esattamente. E quindi niente, io cosa faccio? Porto qualcuno che firma degli assegni, non lo so, cosa devo fare? Ma tu sei già perfetta qualche così. Qualche idraulico, qualche elettricista Condizionatore, così esatto. La mandi da me. Guarda che Luca Falco è in Liguria, perché altrimenti lo facevamo venire qua e ci faceva così una manutenzione in diretta. Guarda, anche perché fanno sempre un po' come quelli della cellulite, no? Cioè? Gli omini del condizionamento. Ti dicono, ma doveva dire lo prima, se ci pensava prima, eccetera. Esatto. Uguale alla cellulite. Vabbè, dove non è mai troppo presto. Comunque. Veloce la borsa e poi manutenzione dei condizionatori a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Finalmente siamo nella nostra stagione preferita, summertime, l'estate è ormai partita e con il discreto caldo di questi giorni in molte case e molti edifici sono partiti anche i condizionatori. Allora, noi raccomandiamo sempre tutte le cautele, intanto non esageriamo perché si arriva a casa, belli sudaticci, parte la temperatura a 18 gradi e ci viene, no? Il coccolone, il crack al collo. Subito liquore denari. Esatto, pronta a soccorrervi, ecco, prima. Per non parlare poi di quella del portafoglio, perché son salassi anche in questo caso. Però noi vi chiediamo, avete già fatto la manutenzione del vostro apparecchio? Sapete che esattamente come per l'impianto di riscaldamento anche il condizionatore ha bisogno di una manutenzione regolare, vanno puliti i filtri, gli erogatori, le unità esterne, vanno controllati i condensatori, bisogna rimediare ad eventuali perdite di gas e quindi si deve assicurare un buon funzionamento dell'impianto evitando sprechi energetici nel suo utilizzo. Come si fa tutto questo? Magari è un po' tardi perché se chiamiamo adesso il tecnico, figuratevi, sarà oberato di impegni e quindi ce la fa pagare magari un pochino, quindi se lo avessimo chiamato un po' prima effettivamente forse come la cellulite. È un po' tardi. Detto questo, insomma, oggi speriamo che qualche suggerimento utile ce lo dia il nostro esperto preferito su questi argomenti, Luca Falco. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti e grazie del vostro invito. Allora, Luca Falco aveva già in passato delle cariche molto importanti per una grande organizzazione degli artigiani, responsabile dei bruciatoristi manutentori, o al contrario si diceva, Falco? Poca differenza c'è, sempre quella la professione. Allora, naturalmente stamattina mettiamo a disposizione la sua professionalità agli amici che ci seguono da casa, all'800 24 00 24. Avete pulito i filtri? A quanto tenete la temperatura appunto del vostro condizionatore? Quanto avete speso per comprarlo? State valutando adesso questo investimento? Perché anche lì magari qualcuno che non lo ha fatto in passato quest'anno così pensa. È anche un piccolo investimento per la casa se la si vuole rivendere, se è già dotata di tutta l'attrezzatura e magari come dire un plus per l'abitazione. Allora Falco, partiamo subito con lei sul tema della cosiddetta sanificazione obbligatoria per legge dell'impianto di condizionamento. Bisogna effettuare una pulizia approfondita del condizionatore con intervento di tecnici specializzati. Pulire cosa? Cosa significa sanificare l'impianto di condizionamento? Allora, dentro l'impianto di condizionamento c'è una specie di radiatore che soprattutto durante il funzionamento estivo si bagna perché toglie l'umidità ambientale. Questa umidità, insieme al ristagno, con un po' di ristagno alla polvere, crea una proliferazione batterica, quindi sanificare significa andare a uccidere i batteri all'interno della batteria per far sì che la qualità dell'aria in uscita sia conforme a quanto richiede la legge. È importante perché noi non ce ne rendiamo conto, ma lasciare un impianto fermo un anno con i filtri sporchi e poi accenderlo fa sì che accada a tutti quanti noi quelle strane malattie che diciamo di prendere quando andiamo a volte in alcuni ambienti dicendo c'era l'aria condizionata, mi sono ammalato. Eh sì, oppure partono quegli starnuti immediati, a me succede per esempio, quindi è perché c'è un'aria non tanto salubre. Esatto. Sanificare significa disinfettare, si utilizzano dei prodotti apposta, dei presidi che si spruzzano, si lasciano agire. E questo fa sì che l'aria che viene emessa dall'unità interna, dagli apparecchi che noi abbiamo, piuttosto che dalle griglie, sia pulita. Senta, quindi insomma, allora la corretta pulizia del condizionatore garantisce l'aria più salubre, dicevamo, oltre che ridurre il consumo di energia elettrica. Questo è il motivo per cui va fatta questa operazione un po' di controllo generale, di manutenzione ordinaria dello strumento, appunto, prima di far partire la sua stagione. Assolutamente sì. E ci sono vari tipi di impianti, alcuni più semplici sono quelli domestici dove c'è l'apparecchio appeso al muro e per la pulizia del filtro basta aprire e si riesce ad accedere in modo facile. Esatto, ed è quel lavoretto che qualche volta si può fare anche da soli, Nicoletta me lo suggeriva perché lei si avventura anche sulla scala, va io o no? Io non sono capace invece, quindi ho bisogno del falco della situazione. Lo può fare, sì. L'omino della manutenzione che non guarda la cellulite, sentivo prima, noi di cellulite non ce ne occupiamo, comunque. Allora, è importante la sanificazione perché quando si viene per verificare il corretto funzionamento si controlla non solo la parte qualità dell'aria, ma si controlla anche l'effettivo corretto funzionamento dell'apparecchio frigorifero, quindi si guardano i parametri, si guardano la corretta carica del gas, si verifica che la macchina esterna, che ce ne scordiamo sempre, sia pulita, sia comunque non occlusa da foglie, perché anche all'esterno c'è un ventilatore che aspira e fa sì che ci sia uno scambio termico. Quindi se questa batteria all'esterno si sporca, soprattutto con lo smog, il condizionatore consuma di più e quindi consumando di più ci fa sprecare dei soldi e abbiamo una macchina meno efficiente. Quindi sono tanti i controlli che vengono effettuati. E questo è il motivo per cui raccomandiamo naturalmente la visita da parte del tecnico specializzato, perché insomma magari una piccola cosa la possiamo fare, un piccolo controllo, ma poi è bene che se, come dicevamo, l'impianto sta fermo per un lungo periodo, magari, che ne so, il suo problema è un pochino più complesso per le nostre competenze. Allora andiamo sempre al tema, mi ha fatto un gesto abbastanza significativo Nicoletta, il tema è capire per questo tipo di controllo, a meno che non si debba mettere mano all'impianto per la sostituzione di un pezzetto che non funziona, quant'altro, quanto ci costa? Perché qua le cifre che sono partite, che ho già sentito in radio, Falco, io lo so che è un tema che a voi non piace tanto affrontare e anche voi ne sentite di tutti i colori, no? E raccomandate anche lì un po' di buonsenso e di professionalità. Detto questo, per questa operazione quanto ci vuole farla? Quanto il tecnico devo stare a casa nostra, ammettendo di dover fare quello che lei ci ha detto poco fa, proprio il controllo di manutenzione ordinaria, quanto è giusto remunerarlo per questo impegno? Allora, le cifre possono variare sempre, come per quando si parla delle caldaie, dipende sempre dalla zona e dipende da come sono state installate. Un'installazione normale può andare all'incirca sui 100 euro per la manutenzione con il controllo della pressione del gas e se non comporta altri tipi di attività. Se devo fare un controllo un pochino più approfondito, il prezzo può anche salire, può arrivare anche a 130 euro. Purtroppo i costi sono un pochino aumentati per via di una certificazione obbligatoria che tutti i manutentori seri hanno dovuto fare per obbligo di legge. Una certificazione che però qualifica l'azienda, quindi esiste un patentino quando non abbiamo solo un'abilitazione professionale, ma abbiamo una qualificazione obbligatoria per la gestione dei gas frigoriferi. Ricordiamoci che peraltro lei, Falco, proprio questa novità ce l'aveva annunciata un paio di estati fa e non è che vi fosse proprio piaciuta tantissimo, proprio per il fatto che comportava per tutti i tecnici specializzati il conseguimento di questa sorta di patentino professionale che per voi erano costi da sostenere e quindi chiaramente si era diffuso molto rapidamente il timore che questi costi poi voi li doveste scaricare sul consumatore finale, sui vostri clienti. Allora ce lo ricordiamo il motivo per cui oggi il nostro condizionatore deve esibire le sue referenze, ma anche il tecnico specializzato che esegue manutenzione ordinaria o straordinaria deve portare con sé la sua patente, chiamiamola così. Abbiamo ogni operatore ha un patentino, ha effettuato un corso teorico e pratico e anche l'azienda che utilizza l'operatore con la patente deve avere lei stessa una patente. La fortuna è che alcune aziende di certificazione hanno abbassato i costi, perché i costi iniziali erano spaventosi. Questo grazie al lavoro delle associazioni di categoria, che hanno lavorato collaborando con le aziende certificatrici per far sì che questo non diventasse veramente pesante, soprattutto per l'azienda e l'utente, perché quando un'operazione costa troppo, purtroppo non viene fatta. Però stavo pensando, Falco, allora anche noi giornalisti abbiamo l'obbligo dell'attività formativa, ma non per questo io vado a chiedere un aumento di stipendio all'azienda perché ho sostenuto questi costi. È obbligatorio a molti... Ecco, esatto, non so, magari il parallelo non le calza, non è pertinente. No, perché però, noi abbiamo la formazione obbligatoria, quindi quella che riguarda la qualifica professionale, più un patentino aggiuntivo. Cioè non è come se voi doveste fare i corsi obbligatori che si fanno con la regione, io l'ho appena fatto per le fonti rinnovabili, perché anche noi dobbiamo mantenere i nostri requisiti, ma in più dobbiamo avere un patentino aggiuntivo, cioè come se ci fosse un doppio patentino, e in più l'azienda che utilizza il personale qualificato anche lei deve avere un patentino, come se il Sole 24 Ore dovesse avere un patentino per avere lei con iscritta all'ordine con la qualifica, con un patentino aggiuntivo. Ma tutto questo ci arriva dall'Europa, da richieste di adeguamento a normative europee? Purtroppo arriva dall'Europa, poi purtroppo noi in Italia riusciamo sempre a complicare, implementare, aggiungendo postille, noticelle che vanno ad aumentare i costi, perché noi cerchiamo sempre di essere più reali del re, e quindi Senta Falco, devo andare al traffico adesso. Sì. Detto questo, quindi se mi servisse adesso chiamare un nuovo tecnico specializzato per farmi la manutenzione ordinaria del condizionatore, alla luce di tutto quello che ci ha raccontato fino ad ora, devo chiedere di esibire il patentino? Se non ce l'ha, non è in regola? Se non ce l'ha non è in regola, è importante che abbia il patentino. Benissimo. È importante che abbia il patentino, e aggiungo una cosa su cui io tengo veramente tanto, è che al termine le rilasci. Se rientra nella legge sul risparmio energetico, l'allegato 3. Se non rientra nella legge sul risparmio energetico, comunque un rapporto di intervento e la ricevuta fiscale, che quello serve a garanzia del lavoro. Guardi, io neanche lo sollevavo il problema, perché lo diamo per scontato. Bravo, no, la ringrazio, perché qua sembra quasi che chiediamo la luna qualche volta. Ci torniamo fra un minuto su tutti questi aspetti. Cuore e denari. Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo? A volte c'è troppo freddo, altre volte caldo. Allora, io già qua ho fatto la sciocchezza, non lo so, ho una finestra accanto alla mia postazione qua al Sole 24 Ore, è partita l'aria condizionata, per me è eccessiva. No, a volte è molto fastidiosa. È eccessiva, per cui io mi apro la finestra e compenso, cose che non si dovrebbero fare, no Falco? Io immagino, lo so, mi rendo conto, però negli edifici lei lo sa che qua... Cioè, venire qua in ufficio per mettersi il maglioncino lavorando mi sembra proprio un po' troppo. Allora, e in casa dovrebbe essere lo stesso. Allora, questo succede per una questione di bilanciamento degli impianti. Di solito le varie stanze hanno dei sensori e questo fa sì che la temperatura ambiente venga in qualche modo adeguata. Per quanto riguarda le temperature di utilizzo, soprattutto quando ancora non fa troppo caldo, conviene sempre utilizzare il climatizzatore, chiamiamola in funzione di umidificazione, che in realtà il climatizzatore fa muovere dolcemente l'aria cercando di non abbassare la temperatura ambiente ma di umidificando. Questo fa sì che noi si possa vivere in un ambiente sano, senza sudare e soprattutto non troppo freddo, perché esatto. Una cosa importante che ci scordiamo sempre è che se noi dovremmo tenere 20 gradi in inverno, e purtroppo a volte quando andiamo a controllare le caldaie troviamo ambienti a 25 gradi e non ha senso tenere, se teniamo 25 gradi in inverno, 18 gradi d'estate. Ecco. La temperatura corretta dovrebbe essere 4 gradi di differenza tra l'esterno e l'interno, ovvero noi abbiamo 30 gradi fuori, 26-25 insomma. Esatto, perché è importante la funzione di deumidificazione, quello che ci fa stare bene. Ecco, tra l'altro proprio a proposito di questo c'era una domanda di Daniela che ci chiede se esiste un deumidificatore estivo che non emetta, cioè aria calda come quello invernale, non sopporto il condizionatore ma ho bisogno di togliere umidità, chiede Daniela Falco. Allora, i deumidificatori, esistono dei deumidificatori che non mandano fuori l'aria calda. Questi però si installano in impianti di solito di climatizzazione dove il raffrescamento è fatto a pavimento e c'è un controllo sulla temperatura. Se no, se si, comunque si utilizza uno split di nuova generazione, un inverter, e la funzione di umidificazione è ottima, e spesso le buone marche, spendendo qualche euro in più, fa sì che la velocità dell'aria sia corretta, perché quello che ci dà fastidio è l'aria fredda addosso, noi non la dobbiamo sentire. Certo. Ed è importante l'installazione dell'apparecchio, perché io dico sempre, se sta antipatica la suocera, puntategli il climatizzatore sul letto, perché di notte siamo sicuri che riusciamo a farla star male. E, è importante che è crudele noi... questo ma tra, tra la battuta sulla cellulite e questa cosa della suocera, oggi Falco veramente si sta proprio mettendo in una posizione complessa. Le faccio sentire, le faccio sentire, Luca, la domanda di Ivana da Reggio Emilia. Sì. Ivana. Buongiorno. Buongiorno a lei, guardi, e complimenti. Grazie, ecco. Ha proprio una bella domanda, perché onestamente questo aspetto interessa pure me. Vale. Allora, vale. Siccome sto camminando nel parco, cerco l'ombra di un albero, così microcircolo, lei con la circolazione non ha problemi, fa movimento, avrà fatto un'ottima colazione. Ascoltandovi, no, brevemente diciamo questo, avevo un condizionatore vecchio e la manutenzione gliela facevo tutti gli anni. Sicuramente la persona che veniva non aveva patentino, perché non mi dava l'idea di essere molto professionale. Insomma, una lavata all'unità esterna e forse una spruzzatina all'interno. Ricarica quasi niente. Quindi due anni fa ho installato, ne ha scelto un altro, speriamo, un condizionatore nuova generazione, non plus ultra. Ora mi chiedevo, siccome poi lo avrò acceso in due anni 10 volte, è indispensabile comunque fare esatto, la manutenzione Ivana, tutti gli anni? Grazie, effettivamente così. Anche io, Falco, sono nella stessa identica posizione. Piuttosto apro tutte le finestre di casa, faccio, ma il condizionatore faccio proprio il possibile, perché non lo amo. Detto questo, ecco, cosa faccio? Procrastino magari di un anno il controllo di manutenzione ordinaria, oppure è bene vado che anche io a per... pulirle i filtri, esatto, che ormai sono capace. Oppure aspetto lei che da Genova viene un attimo qua, un giorno mi fa questa cortesia. Qual è la soluzione? Allora, il gas negli impianti frigoriferi non si aggiunge se non ci sono perdite, quindi non è detto che si debba aggiungere. Prima di andare a verificare con il gruppo, con i manometri, con le gommette sulle prese di pressione, che comunque ogni volta che si fa un pochino di perdita l'abbiamo, ci sono vari controlli strumentali da poter effettuare, meno invasivi, quindi temperatura di mandata dell'aria, piuttosto che assorbimento elettrico. Mi sta entrando un po' troppo nel tecnico, andiamo ad una risposta molto pratica per Ivana. Per cui, intanto la pulizia dei filtri, anche se io non l'ho utilizzato, la polvere in casa l'abbiamo lo stesso. Quello che pensavo anch'io. E quindi quelli vanno puliti. E disinfettare la batteria interna e pulire la batteria esterna comunque va fatto, perché sta all'esterno, abbiamo lo smog, abbiamo dei depositi di polvere, quindi comunque vanno puliti, anche perché nel momento della pulizia si fanno tutte le prove tecniche di cui stavo accennando prima. Per cui uno fa la manutenzione principale, che ha un costo inferiore, e durante il controllo verifica che tutto sia in ordine. A questo punto, se tutto è in ordine, la macchina può funzionare e affrontare tranquillamente il periodo estivo. Chiarissimo. Allora, stiamo andando verso la chiusura, Falco. Allora, vorrei così ricordare agli ascoltatori che noi questa mattina ci siamo concentrati sulla manutenzione ordinaria o straordinaria dell'impianto che abbiamo già installato in casa. Per tutti gli interventi nuovi ci sono in vigore i bonus fiscali, che sono molto generosi per gli interventi che comunque hanno come obiettivo l'efficientamento energetico della casa. Un'ultima domanda in 30 secondi, se ce la facciamo, Falco: nel caso in cui il nostro impianto non abbia mai visto in vita sua un libretto dove sono registrate le informazioni sulla sua vita, il tecnico che chiamiamo ce ne può portare uno ex novo? Allora, è importante che il tecnico al momento della manutenzione, se non trova documentazione, compili tutto quanto è obbligatorio per legge. Lo può compilare o sul momento, se ha sistemi informatici, o su un supporto a cartaceo, o inviarlo via mail. Ma è importante che comunque tutta la documentazione necessaria ci sia. Che esista una documentazione che attesti la vita, morte naturale durante del nostro impianto di condizionamento. Ora, non entro nel tecnico, perché lì diventa veramente complicato, perché varia molto in funzione della taglia, della quantità di gas, e lì bisogna affidarsi assolutamente a un professionista che sappia dare consigli corretti. Grazie a Luca Falco per essere stato con noi. Noi abbiamo parlato dell'esistente oggi, ma per chi volesse installarlo ex novo, ci faremo un'altra puntata al più presto. Intanto noi torniamo domani. Ma Clelia ci dice, con tutto quello che facciamo noi nonne, non ci puntano certo il condizionatore contro. Cattivone, a domani.